adesso vediamo un po'. Ma vedete, entrerà dopo, solo domani mattina. Ah, vabbè, certo. Andrà bene. Stavo non computer io, l'ho già sistemato, scaricando Google Chrome. Così domani. No, premussi. E piano piano si fanno le cose, già lo sai. Bello, piano piano le facciamo. Di pronto in cassata, diceva quella, poi siamo solo un giorno prima, un giorno dopo non cambia nulla. Eh sì, in testa in cassa, bravo, bella detta giusta. Vabbè, e lui ragazzi. Sono anche un po' stanco. E beh, ce lo credo. Ciucchi ciù. Ora. Cazzo diavolo si dice, no, cazzo diavolo. Oh, si dice, no, si dice le parolacce. Pugno, guarda bravo. Cazzo. Peggio di prima, cazzo. Non so io, cazzo. Andiamo. Appunto, andiamo. Sto usando il conto, quanto mi sto usando. Bene, mi ascolti, sì. Benissimo, tu bene, mi ascolti, sì. Perfetto, 9:25. E allora siamo in due, siamo in due che andiamo bene. Grazie a Dio, ho sistemato il problema che c'era. Tutti i Saturnè come ci sono in giro, sono tutti con lo stesso difetto. Cambiare il CRIM 103 di questo palo di valore, che altro 103, poi vabbè, è una cosa diversa. Tutti lo stesso dilemma ci hanno. Qui da un certo punto, una volta che metto quello, l'apparato torna come prima. Ah, beh, certo. Ecco, sono stato io quasi un mese girando a testa, sì che non sono uscito ieri, adesso basta, una volta che è centrato, l'ho lasciato così, non tocco più, gli metto la colla, qua fanculo, devo stare cazzo, diventare scemo, cazzo, per un baracchino, cazzo. Non ti conviene, entriamo con un baracchino. No, a me già funziona bene, grazie a Dio. È perfetto, non vi posso dire niente, il mio va benissimo, è come questo, fare uguale. La stessa modulazione, lo stesso ecco, sono precisi. Va bene, va bene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di lusso, di lusso, come 4.000, ma come il coso, il typhoon, no? Preciso, io ho messo la mascherina del terminal 9, gli ho messo la verità. È preciso al iPhone, sale uguale. L'unica cosa che c'è in più l'eco del Saturn Echo, preciso e identico. Io stesso guardi la via, penso. Da un po', qua non c'è un cazzo. Qua ci sono. Qua non c'è niente. Ma di karaoke, ecco, tanto non c'è nessuno, boh. la portata ceramica, la salata di una sala. No, ho capito. C'è una portata inserita, cazzo, rincoglionendo mi sto, eh. Ma insomma, conta, infatti, c'è Paduoso o... Perché non ho capito perché... ci sono le basi dell'Appennina, però... Vedo, comprendo. Io vabbè, piano piano bisogna ragionare, come si dice, piano piano piano piano, nei capi piedi, se no sei morto, sì. No, ma te ne ho cavato un piede, perché? Dopo il mio, sì, sì. È che non capisco perché nella Pinia ci sono le canzoni, non me le fa vedere, poi si vedrà quello. Vediamo un po', parliamo netta. E quelli piccolini, Ho capito. E vabbè, c'è anche io quelli piccolini dei computer, ma non esiste a nulla, ho pagato 80 euro. Ho comprato un mondetto, ha capito? Senza neanche saperlo, non conoscevo un accidente di questa roba qui, quindi a un certo punto sono rimasto fregato. Che mi serve la lezione, quindi vabbè, piano piano, come si dice, amici, bisogna far amico, eliminarlo piano piano, quando lui comincia a raccontare balle eccetera eccetera, non va, è eliminato del tutto. Ci sono quelli, io che faccio queste qua, gli altri non me le apro, non so cosa cazzo li hanno combinato, sono che devo ricopiare, cazzo. Allora, il tu dove non è venuta, è andato la vita lì, vabbè, elimina, vabbè, ma che elimina, poi questo qua c'è una protezione, c'è forse, nel cazzo non si c'è da vedere. Ma non ti rimira nulla, niente. Ho capito perché. Non capisci. Ehi, piano piano piano piano, già ci arrivi, non ti preoccupare. Come si dice, no, però bisogna avere una bella esperienza, dopodiché ti viene un gioco, ti viene. Ah, Sabina come ha dei problemi. Si funzionava prima. Cioè già funziona, solo che... No, vabbè, tanto, cazzo, qualche anno li faccio, non è quello. Ora ci abbiamo un sistema operativo, capito? Io ho rimesso tutto. Allora, qua... Non so come cosa cazzo è, tutto. È musica. Però le basi karaoke. Basi karaoke. Ci sono, vedi? Anni 60, anni 70. Ce ne sono tante. Figurati, quindi c'è di tutto, c'è. Magari uno che si divertiva a fare karaoke, magari in qualche circolo, hai capito? E si è memorizzato quella mondezza lì. Diciamo che è un po' un casino, tutto. Che cazzo adesso? Ci sono le basi. Se ci sono le basi vuol dire che qualcuno che faceva karaoke in qualche circolo, fregate, questo è poco ma sicuro. A un certo punto. Ah, mi aveva formato, che cazzo adesso? Piano piano bisogna che ne cavi i piedi, come si dice, no? Infatti l'ho formattata adesso, c'è la piazza giù di là. Ce l'ho mai far vedere. C'è una ragazza arrivata a Benina, non so a chi l'ha data, non lo so, adesso mi metto un po' di musica, che cazzo devo fare, un po' di musica li metterò, cioè non abbassano le mani attraenti, cosa ne so cosa quasi, cioè praticamente c'è la cartella ma è vuota, cazzo da sino che viso, cioè il computer mio ci sono, c'è tutto, basi, karaoke, tutto, E quello avrà incasinato tutto senz'altro, non ti preoccupare, avrà scaricato una pennina per poter fare karaoke eccetera eccetera e poi si è trovato tutto incasinato. Adesso, niente adesso. sì, queste sono tutte le MP3. Casino qua. Guarda, cani dei gozzi, guarda. Se prima c'erano, non ho capito perché è vuota. Cazzo di è fatto per così. Oggi vuoi fare? Via tessera. A un certo punto, oh yeah, yeah. E ce la fai diventare matto tu? Infatti, tu non ti devi diventare matto io. Cazzo. No, questi russi. Invece vedi lì che no. No, questi russi. Ce ne sono tante basi, ma tante. Solo che... ho capito. Sono scendi di capo e adesso già lo lascio così, adesso spengo tutto qua, te lo spengo e già metto la porta, ma me lo continuo. Sai che Carlo sei drummito, buon no, stavo pieno di piccini, se no ci vedevo un accidente, cazzo, al telefonia, mi ha scritto uno Instagram, eccolo, famoso, appena stava a fare culo, cazzo, quando mai lo immaginavo, cazzo. Labio, la stia laser, in pratica sarebbe, cazzo, fare l'operazione alla... chiaro sei l'opere, le donne, alla vagina. Non ho capito la pompa. Era uno che mi ha mandato la pubblicità per fargli l'operazione alla vagina, non hai capito nulla. Prima con LED, poi con coso. Era quello, perché mi è arrivato su Instagram, ha capito. Chissà quanto arrivo l'altro di quelle cose lì. Poi sì, tutti culi nudi, ya lo sai, lo sai più di me. Fanno i soldi di là, fanno con questa roba qui. Se vuoi andare a farti l'operazione, basta andare. E non c'è nessun problema per loro, capito? Se la pieni in culo. Tutto a Santo Domingo e me. Allora, Santo Domingo. Ah, Santo Domingo, sì, bravo. Quindi c'è di tutto lì, Santo Domingo, c'è. Ehi, c'è una poca di roba, cazzo. Chiedono soldi per fare pubblicità, eccetera, eccetera. Oh, io, yeah. Lascia di chiedere, pompa. Oh, yeah. Allora, c'è proprio Simona che si trova per vedere offerta, acqua leggermente frizzante, bio blu, 4 bottiglie per 1,5 litri, più 2 bottiglie gratis, 1,64. Dove cazzo l'ha procurato questo coso? Gianfranco. Che Gianfranco? Gianfranco Teschi, già lo sai chi è, quello per la babacchina, tanti tanti anni fa. Che c'era la moglie si chiama Graziella e quando va a Baracchino. Quando c'era le ambulanze lì a coso, cosa ti posso dire? Aveva conosciuto di fronte alle conce, di fronte, vicino allo spì, c'era le ambulanze. Ah, ho capito, sì. Ti parlo di quello io, ormai lui è in pensione. Non lavora più al comune, capito? Prima lavorava al comune, adesso non ci lavora, adesso è pensione. E poi la baracchino. Sì, a voglia. E poi la moglie ce l'ha separato. Bravo, sì, sì, è separato, sì. Cosa lì, dai. Adesso le sto copiando le basi, vediamo un po'. Adesso non uso questa cazzo, vedo. Casino, su cazzo di cose, casino, tu mi lasci aver dato così, tu volevo una blu, vediamo, io vado qua, questo qua, lascia vedere, apro qua, questa blu non userà, vediamo un po', se me la fa cancellare, vediamo, adesso me la fa cancellare, vedi, vedi, musica da ballare, cos'è ragazzo l'hanno fatto? fatto, già l'ha apprezzata questa pennina. E ho lasciato le cartelle con il nome, il resto era tutto cancellato. Figurati. Ascolta, sembra il corso di... Niente. Tira a volo, Coppa del Mondo, no? Trionfa, Ottirese, Luigi Lotte, meno male. Supermercati occhio alle tuffe, ti svuotano di conto al supermercato la cassa. Bubu. Non ho rubato? Supermercato è tuo. In pratica stanno fregando i soldi, hai capito, la cassa. Evidentemente non lo so, come cazzo fa, ma comunque non lo so. Poi c'è la pubblicità della Croce Blu, mette a disposizione i tipi di ambulanza, deve essere che sono già in cosa, in casa anche loro, cazzo. Senza soldi, e quindi... Oggi c'è stato adesso, prima quando chiamavi a mezzanotte alle 2:08, noi ci siamo al Croce Blu, non facciamo solamente il 118, facevano, capito? Adesso anche il culo lavano. Casino, ragazzi, un casino. Ah, peggio per loro, guarda la verità, perché io l'ho chiamato un sacco di volte, quando andavo a pronto soccorso per mio fratello, che già però usciva alle 2-3 mattino, cosa del genere, andava a cercare la Croce Blu, no, noi facciamo solamente 118, mi dicevano, assolutamente no, noi non accompagniamo nessuno, adesso poi ci stiamo mettendo la pubblicità su Facebook, capito, ne fanno anche trasporti, anche notturni, capito, sono in mezzo alla merda. Adesso faccio la bigliana in cuso, la bigliana in cuso, per conto mio, peggio per loro, quando li chiamavano alle 3-4 del mattino, quando c'era anche un'ambulanza, che sembrava di, quando chiamavi un'ambulanza per dire che c'avevi un parente, sembrava che dovevi fare cazzo, ti posso dire, è stato nell'otto, cazzo, a un certo punto, fino alle 4-5 del mattino, non ti rispondeva nessuno, capito? Adesso cazzo stanno cercando persone cazzo che li campa, adesso se la prendono in culo, se la prendono. Ehi, ho sentito lontano la camera, ho sentito, devo chiamarli più, devo dire che sono chiamarli più, è un casino, beh. E infatti non ti chiamate, già un mese che stanno mettendo la pubblicità, capito, perché per fare i trasporti, capito? Perché mai penso il 118, hai capito? Il discorso è quello, non sanno più come fare per campare il resto delle persone. Adesso, prima a un certo punto mi telefonavi, no, io mi dispiace, chiami un'altra cosa, perché noi facciamo solamente 118, hai capito? Adesso se la troncano in culo, quello chiamo vedere, per dire, la Croce Blu, che mi dicono, noi siamo disponibili, ascolti, guardi, ho già trovato una persona, me. Non c'è problema, ho chiamato mio nipote, c'è il caro funebre, c'è il filo della padella dentro e me lo porta a casa il mio parente, sta tranquillo, che è vivo. E poi che ci ho messo in carrozzina, a me non sono soldi. Se non mai ti costa? Lo so. 30 euro, sono 30-40 euro solo per spedito da casa, da pronto soccorso. Ci fanno pagare, ma la prima era offerta, ma adesso la devi pagare. E via. Casino, è un casino. E lo ci vuoi fare, purtroppo. Prima era un casino, adesso invece sono tutti in mezzo alla merda, quindi adesso fa una gara a vedere chi incassa di più, hai capito? La notte. Prima non uscivano, adesso non escono. No. Il discorso è quello, adesso quando c'è una persona che, per dire, da buttare fuori, cosa del genere, da pronto soccorso, sai cosa faccio? Con la telefono, pronto, sì, Croce Blu, sì, quanto volete? Perché 40 euro, aspetti un attimo che c'è il fratello che lavora, come si chiama? Lì in camera mortuaria, lo faccio portare in camera a casa con la barella. Poi non si preoccupi, già ci porto io la barella nuovo dentro, al ritorno. Forse è l'unica valussi. Si fanno pagare, ma la sorte, cazzo. Si fanno pagare. Vabbè. Contava una volta per portare a mamma. Mi è costato tra fare il foglio dal coso, no? E portare mamma per fare una visita per l'accompagnamento, 100 euro, cazzo, la volata mi era costata 40 euro. Io ci credo, non è che ti sto dicendo che si fa un raggio. Giampiero, sai quante volte io chiamavo al telefono? No, non rispondeva nessuno. Dovevi fare tipo la roulette russa. Chi ti rispondeva a un certo punto, hai capito? Erano due, non di più, due e basta. Tutti gli altri, tutti... No, noi facciamo 118, facciamo solamente quella, non dobbiamo fare nessun trasporto di notte, dalla mezzanotte in poi. Adesso, visto hai che c'era proprio il coso, la richiesta su Facebook, peggio per loro, adesso si attacca l'alcazzo, si attacca. Evidentemente sono senza soldi, capito, non sanno come campare. Adesso se la prendono in culo. Fa il culo. Prima stavano bene, capito? Con 118 500 euro al mese ogni operatore, più si pigliava i soldi anche il titolare, capito? Invece adesso le cose sono cambiate. Oramai sono tutti in mezzo alla cacca solo. Tu basta chiamare altri. E infatti ho fatto sempre così. Ho chiamato gli altri, ma adesso ho visto la pubblicità che stanno facendo su della Croce Blu su Facebook, hai capito? Per fare i trasporti. Quindi vuol dire che sono in mezzo alla merda, che non sanno come fare a campare. Sono 8-10 operatori, sono visto tutte le ambulanze che c'hanno, tutte ferme sono. Perché ormai è finito tutto. Prima l'ho campato con la questione per trasportare le persone che erano in quelle condizioni a un certo punto e i soldi c'erano, adesso invece i soldi non ci sono più, sono rimasti fregati. Ormai il Covid c'era poca gente, non è come prima, no? Prima c'erano 20 al giorno, 30 al giorno, quello che era, quindi il guadagno c'era. E come Becchini, era uguale per dire 30 morti al mese, ha voglia che campano. Se non muore più nessuno, adesso rimangono a calore in mezzo alla cacca. Beh, certo che sì. E vabbè. Possiamo andarci, fregatene. Essere chi giga, oppure uscire. La gente è strana. E già mi sono accorto che la gente è strana. Hai capito? Prima dicono di no, non usciamo noi, no, assolutamente no. Noi facciamo solamente 118 e basta. E per il Covid mi ha detto, siamo tutti impegnati per il Covid, mi ha detto. E quindi gli ho detto, la mattina, alle 4 del mattino, se io ce la fare, rientro a casa, e tu mi faccio mettere sotto detto, qualche macchina, gli ho detto. Ah, mi ha detto, salvaggi, mi ha detto, se trovo qualcuno che l'accompagna, è bene, se no dice paziente, mi ha detto, va bene, gli ho detto. E tu a far culo, gli ho detto. Lui gli ho risposto, ho preso, mi sono andato a casa da solo. A peli. Così mi hanno risposto. Se tu chiami alle 4 del mattino, ti sto dicendo io quello che ti dico. Perché è vero, da pronto soccorso. Devi fare, ci sono i numeri del telefono, devi fare, come si chiama? Tipo la roulette russa. Ci sono quelli che ti rispondono, ci sono quelli che sono in pratica che non gliene frega proprio niente di andare a fare un trasporto, ci sono quelli invece che fanno il trasporto in nascosto, in pratica del che si incassano i soldi loro, hai capito? Quindi sono 30 euro, 30 euro si dividono in due. Adesso arriviamo un po' fuggitini, ma se non chiamarli più, ci chiama quelli che chiedono solo la un'offerta. Certo, noi gli dai 5 euro, però. Questi è quello che se ne diamo, signor Safa. Mi fa dalle scuole. Quelli a mio fratello in pratica gli hanno chiesto 30 euro, gli hanno chiesto. E se non mi avviso, l'artista è quello che c'era dietro. Senza sapere niente le, come si chiama, il loro principale. Perché non te ne hanno dato il ricevuta? Nulla, se ne sono incassati loro i soldi. Che cazzo non possono fare? E l'hanno fatto, siccome erano gli unici che c'erano liberi. Secondo te la sapevo Giampiero ha pronto soccorso a quell'ora. Ho preso e trovato, accompagnato a casa mia, mi risolvi, vaffanculo, a me non me ne frega niente, sono cose vostre di quella. 30 euro, ecco 30 euro, arrangiatevi. Cosa vuoi fare, fuggitini? Lui cavolo un mezzo. Avere un mezzo è sempre stata una cosa diversa la vita, beh. Per fare i trasporti e cose del genere. Ma non con la barella, no. Un metro con una, come ti posso dire, con la carrozzina, lo si vive dentro, poi ce lo porti a casa, poi prendi lo sdraio direttamente a casa sua, nel letto, tanto per dire. Si deve fare tipo come si fa adesso con l'Aulus, capito? Io ho capito. Vabbè, mi sa che ti saluto. Adesso si salva, mi salvo tutte le basi, io dormo ci vuole 19 ore per mettere tutte le basi nella pennia. 19 ore a 2, domani la sera del fino. Ma il figo del 19 ore. Lasciala così acceso. Fino a domani sera, perché domani sera prendi e glielo dai. Se per sé. Sei tutto a posto, se non devi fare tu quanto da capo. No, qui c'è a posto, no, le basi sto mettendo, qui c'è perfetto. Ho messo i driver, tutto, capito. E allora già va bene, non c'è problema. Fallo tranquillo. E poi domani sera glielo dai, ti fai pagare e sei a posto. Cattariaro! Andava, dai, ciao Pompo, buonanotte. Saluti a chi sta ascoltando anche. Ciao. E io, d'accordo, ciao, buonanotte. Buon tutto alle prossime, ciao. Che beccia. Saluta Simona, ciao. E io, è stato uno di cambiati, ciao.